ragazzi fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori profumati di fragilità, ma in amore sono come querce. E qui dall'altra parte, e qui dall'altra parte siamo noi, incerti ed affannati siamo noi, violenti ed impacciati siamo noi, che non ne veniamo mai a capo, mai a capo. Noi, sicuri e controllati siamo noi, convinti ed affarati siamo noi, che non ne veniamo mai a capo, mai a capo. Forse questo non è tutto vero, sono angeli a metà, ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che hanno già deciso di tuffarsi. E qui dall'altra parte, e qui dall'altra parte siamo noi, incerti ed affannati siamo noi, violenti ed impacciati siamo noi, che non ne veniamo mai a capo, mai a capo. Noi, sicuri e controllati siamo noi, convinti ed affarati siamo noi, che non ne veniamo mai a capo, mai a capo. Siamo noi che non ne veniamo mai a capo, mai a capo. Noi, sicuri e controllati siamo noi, convinti ed affarati siamo noi, che non ne veniamo mai a capo, mai a capo. Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.